Una buonasera a Radio Città del Capo, 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia, che vi saluta chiaramente. Saluto anche il mio compagno di viaggi, nonché di avventure e disavventure, perché no, questa sera non ci sarà in una fase di restyling, poi siccome è un po' sensibile non voglio infierire, no, a parte gli scherzi, tornerà a breve, tra l'altro probabilmente con uno specialone che vedremo insomma di mettere su dopo la Santa Pasqua, no? Ancora santa, no? Per qualcheduno. E Max Macchia appunto vi accompagnerà questa sera, questa notte, per buona parte insomma di quello che è a cavallo tra la domenica e il, ohimè, lunedì, o i noi, forse è meglio dire. E questa sera strani sogni, in effetti poi l'ora ci porta anche un po' a sognare appunto dentro la notte, poi per chi ci ascolta invece sul blog magari di giorno salutiamo, tanto va bene lo stesso, anzi spesso, come dire, siamo poco notturni per rumori e per vitalità, quindi va anche bene ascoltarci sul blog, per certi aspetti anche meglio, 451frammentisonori.noblogs.org, e salutiamo anche quindi il terzo 451, che è un giochino insomma di parole, ma per salutare il nostro Albano, il nostro Lorenzo Albano, sempre il caso di dirlo, casomai ancora qualcuno si confonda, che è un po' l'uomo che agisce dietro le quinte di 451, soprattutto per quanto riguarda il nostro blog, per l'appunto. Strani sogni pop, in effetti questo era il titolo di questa sera, la tematica, se vogliamo chiamarla così, l'attitudine che svilupperemo. Strani perché, pop perché, sogni perché, tutto probabilmente avrà un filo per quanto riguarda una prima parte più elettrica, che chiameremo Electric Dreams, e una seconda invece staccata, che appunto è Acoustic Debris, Acoustic Default forse si potrebbe anche chiamare, visto che debris poi significa frammento o anche abbandono, mancanza, e anche default, parole insomma che ultimamente si usa, non so quanto a proposito, quanto a sproposito, comunque di fatto insomma sta creando insomma un po' di dibattito, chiaramente non musicale insomma, o se musica insomma la intendiamo in senso molto molto largo, come spesso comunque accade da queste parti a 451 frammenti sonori. Strani sogni pop, il pop ha avuto momenti nel dopoguerra aurei, dagli anni 60, dei Beatles, dei Beach Boys, di tante musiche insomma che si sviluppavano dentro un linguaggio popular, che riuscivano a sperimentare addirittura con una materia che sembrerebbe insomma distante dalle sperimentazioni, dalle arditezze compositive. In realtà insomma gli anni 60 ci hanno spinto ben in là, c'è stata proprio anche la creazione proprio del pop come lo intendiamo, anche lo abbiamo anzi inteso fino a pochi giorni fa, fino a qualche anno fa, fino più o meno un'altra età aurea del pop, new pop come si chiamava quello sviluppato attraverso la new wave, altro insomma periodo pieno di caratterizzazioni molto interessanti legate appunto alla popular music, pop chiaramente non tanto di derivazione insomma mediterranea, perché insomma si va a prendere il popolare che è ben altra cosa, stasera interessa relativamente, seppur per alcuni casi uscirà ma con tutt'altra matrice popolare, qua si intende molto più vicino al folclorico qua in Italia ad esempio, quindi il pop soprattutto per quanto riguarda la cultura anglosassone è quello di Andy Warhol, la pop art e tutto quello che si è potuto sviluppare appunto utilizzando un linguaggio di massa che veniva decodificato in maniera diversa, deturnato o comunque decostruito anche appunto in chiave postmoderna, ad esempio dentro il techno pop degli anni 80. Questa sera avremo anche un riferimento alla fine della prima parte proprio con quel periodo. E probabilmente ora, insomma, parliamo di un pop al passato, un senso del pop forse smarrito, visto che insomma l'industria discografica è decisamente blindata per quanto riguarda il mainstream, per quello che deve vendere, poi tra virgolette anche quello che vende, visto che veramente si va a picco qua con le vendite rispetto appunto a quei periodi che citavo prima, dove veramente i dischi appartenevano alla cultura popolare, tutte le case avevano qualche vinile, anche la persona meno avvezza alle musiche, alle musicalità, al supporto proprio del disco, ma anche del CD fino, insomma, sicuramente una parte degli anni 90 si può parlare, insomma, ancora di un pop diffuso. E poi questo svanimento, questa sorta di blindatura appunto delle grandi major, del mainstream, con prodotti sempre più mirati, non si può più sbagliare, quindi i cloni dei cloni, musiche che comunque si fanno sempre più stantie, con figure che poco spiccano. Non c'è soprattutto quel grande ricambio che appunto ci fu negli anni 60 e negli anni 80, appunto dall'underground poi l'overground, e con quel senso appunto anche di sperimentazione dato da artisti che comunque si erano guadagnati la fama e la popolarità tra virgolette proprio attraverso i primi prodotti underground, quindi erano riusciti anche tra virgolette a vendere, poi di fatto insomma anche sfruttati in questo senso, ma c'era ancora un braccio di ferro molto insomma serrato tra creatività pop e invece industria discografica, cosa che sembra insomma molto in crisi adesso, se non addirittura azzerata. Figure quindi di pop impossibile come quella di Ariel Pink, Haunted Graffiti, che probabilmente negli anni 80, proprio il momento di ispirazione di questa splendida formazione che riprende insomma in maniera veramente mirabolante i linguaggi del pop, riesce a miscelare quell'incrocio strano tra wave fine 70, primi 80, quel pop radiofonico anche, però dentro rumorismi, dentro rimandi anche sonici, con questo suono filtratissimo, quasi a ricordare un suono amniotico, un suono che si ascoltava appunto dentro la pancia della madre prima di venire al mondo, insomma una faccenda piuttosto particolare. Abbiamo anche parzialmente trattata con The Panologic Pop qualche tempo fa, appunto come 451, ma questo è uno strano sogno pop, probabilmente un sogno impossibile di fare della popular music, della pop music in questi giorni, ma tant'è che forse esiste ancora appunto questa strana utopia probabilmente di arrivare così a diffondere il materiale che appunto si vorrebbe filtrato dentro anche una macchina pop come appunto quella di Ariel Pink. Buon ascolto, come dice il mio caro amico e compagno Eliseo Scarpa, e ci sentiamo appunto tra qualche minuto dopo questo splendido e strano viaggio pop. We'll be right back. human race is a pile of dog shit. In my world, I hold the key of wisdom in my hand and lead all the children of the earth to a door they previously believed locked, only to find it open, inviting them to see. You can all kiss my ass. And there is light. In my world, I make medicine. Mankind is a Nazi. And breathe fire from the lakes of harmony. Humanity is the devil. I should sculpt the melodies of your love. And God is a good friend of mine. In my world. You really think I give a fuck about the world? Used to be confused and I never denied it. The right and moral wrong. In the world I'm a fallen angel. In mine I'm in hell. I pay my rent to the devil for the dark space to dwell. Cause it's too bright, too hot in the sky for me. Hell's a hell walk for them. Heaven. Ariel Pink probabilmente inizia questo percorso straordinario in termini pop, poi magari qualcuno potrebbe trovare anche fin troppo assurda magari la musicalità che comunque è indiscutibile di Ariel Pink, con un suono veramente triturato quasi, o fatto passare forse attraverso strani filtri che magari sono anche filtri storici di memoria, appunto, di musicalità passate, ma non clonate, anzi tutt'altro, visto che appunto dentro questo strano calidoscopio pop c'è veramente di tutto, e non soltanto probabilmente il pop, ma anche quella vena appunto di sperimentazione, in questo caso quasi dettata da una sorta di malinconia di un futuro mai realizzato, quello che interessa ad Ariel Pink è probabilmente riprendere un filone appunto stoppato per varie ragioni storiche, insomma, appunto quello di un certo pop, soprattutto legato al primo techno pop, alla prima wave che riusciva a rendersi incredibilmente nuova rispetto anche ai linguaggi della prima tra virgolette avanguardia pop, appunto quella degli anni 60, psichedelica e quant'altro, insomma quel decennio, insomma, aureo soprattutto per quanto riguarda il pop ha dato. E abbiamo preso appunto Ariel Pink tra le sue primissime produzioni, quelle che 10 anni fa suonavano probabilmente più vicine ai noiser americani, proprio perché indefinibili, forse vicine, o senza neanche dire tanto forse, a Animal Collective, anche Amici, e hanno anche stampato qualcosa appunto proprio con questi altri folletti del new pop, anche se forse probabilmente ombra questa sera di 451 frammenti di questi appunto strani sogni pop. Un'altra formazione, un altro progetto decisamente strambo nell'ambito del pop, nel tentativo appunto di essere ancora popular, sono Peking Lights, stampano per No Fun Record, quindi vicino appunto al noise americani, soprattutto a Carlo Schiffoni, che mutando appunto la materia sonora, la grana forse sonora rumorista, con una sorta appunto di lontananza sonora, di suono che va a rimembrare strani percorsi lo-fi, Peking Lights, con tanto di sonorità che ricordano appunto certe faccende del passato, del pop aureo, con un dabbismo di fondo, oppure con una strana e stonata anche sbavatura dub che dà questo senso di lontananza piuttosto assurda nella musica di Peking Light, ma che ha anche appunto questa grande potenza comunicativa, chiaramente è soltanto una potenzialità, visto appunto il discorso che stiamo facendo questa sera, che è appunto quello dell'impossibilità anche di un certo pop. Non sono più appunto i momenti in cui l'underground riusciva a diventare overground e quindi riuscire poi anche sfondare, poi magari anche, come dire, a rovinare anche un percorso. Tante cose sono successe, insomma, dentro formazioni anche splendidamente wave sperimentali, poi datesi al pop e anche commercializzandosi e svilendo, insomma, un po' il loro percorso, ma tant'è che, insomma, è un rischio anche da correre. Questo rischio per il momento non c'è. Ci andiamo appunto ad ascoltare Peking Lights, da uno degli album, insomma, forse più belli del 2011 per quanto riguarda, insomma, questa categoria, questa materia sonora così trasversale che è appunto il pop. 936 appunto, da Peking Lights. We'll be right back. The popular idea, encouraged by Shakespeare, that the tawny owl calls to wit to woo, has arisen from a confusion between the separate kivit, contact call, and the quavering territorial hooting which, in the popular imagination, have become combined. Advisor Circle, anch'essa formazione molto giovane, progetto, come spesso amiamo qua dire, perché è ricca insomma di lavoro in costruzione, di artisti anche che passano dentro progettualità che si vogliono aperte, buona parte insomma delle musiche che mandiamo qua, 451 frammenti sonori, e vivono proprio di grandi collaborazioni, di grande anche immaginazione inventiva, come appunto Advisory Circle, ma come dicevo, appunto accennavo, giovane formazione, giovane progetto come Peaking Lights, arrivati al secondo disco, secondo LP, Long playing alla vecchia, insomma, visto che stasera c'è questo rimando, insomma, al periodo appunto del long playing, quando ancora, insomma, c'era appunto questo senso comune del pop, per quello, insomma, veniva chiamato pop. Forse anche in questo senso, insomma, il termine è caduto quasi in disuso. C'è chi ascolta appunto e scarica quello che viene proposto in termini di mainstream, poi appunto pubblicizzato e propagandato. Ecco, questo è forse un termine che più si appropria ai mass media, come appunto vengono utilizzati, o come più o meno sempre è stato fatto. Però appunto poi ci sono momenti di così di detournamento all'italiana, detto, e The Vazural Circle fa proprio quello, prendere quei momenti da sigla televisiva, da sketch radiofonico che ricorda qualche radio pirata, qualche magari radio liberata, qualche televisione appunto con sbavature da sperimentazione, così di primo acchitto, magari appunto le possono ricordare, così dico, qualche momento, qualche serie televisiva degli anni 60 della BBC, ma anche perché no, momenti della fuorvianti della nostra radio televisione italiana, la RAI, insomma. E appunto si apre questo mondo, strano mondo di rimando e anche di reinvenzione, appunto ipnagogica, come abbiamo definito queste musicalità a tempo addietro, appunto dedicando proprio un'intera serata di 451 proprio all'ipnagogic pop. Ma più in senso largo, insomma, c'è questo strano sogno di divulgazione, di forse anche di diffusione da parte, insomma, delle formazioni che hanno aperto appunto questa serata di 451, come d'altronde c'è un'immaginazione molto profonda legata, e quasi una sorta di scimottamento, però legato a un atteggiamento assurdo, quello che andiamo appunto ad ascoltare, di Neon Indian, anche se vicini forse a Ariel Pink, soprattutto in queste aree stranamente 80. Forse con Neon Indian si va ancora più addentro alla forse nostalgia di quel suono, e come questa nostalgia poi diventi in maniera anche così appunto rocambolesca nuova fonte creativa, come sta succedendo a Neon Indian con questo pop, insomma, deviante, ma neanche troppo, perché poi appunto quella matrice anni 80 si ritrova, si sente, però appunto c'è questa sbavatura strana che è sia temporale e sia così di rimando, e quindi questa stratificazione che riescono a fare sentire Neon Indian in maniera così piuttosto originale. Non siamo al clonismo di Electro Clash, International Gigolo vari, insomma, anche se pur anche lì, insomma, qualche punta, insomma, di genio c'è stato, insomma, anche qualcosa qua l'abbiamo passato di Ziglus, ma stiamo parlando appunto di Electro Clash, che è già faccenda piuttosto abbandonata da queste parti, ma in generale anche proprio in terreni anche forse dissimili dal pop, perché appunto più legati a un immaginario dance. Qua invece siamo pienamente dentro a quest'idea appunto di popizzare una matrice forse non più popizzabile, appunto, come quella del techno pop degli anni 80 dei Neon Indian. We'll be right back. visto che stiamo parlando di utopie anche forse dentro questi strani sogni pop, Vincent Clarke e Martin Gore, vi devo dire chi sono. È un'utopia infatti tornare insieme dopo più di 30 anni, appunto dai primi Depeche Mode, per fare ancora forse ancora un po' di scuola per quanto riguarda insomma la creazione del Technopop, di un Technopop poi impossibile visto che non può esistere adesso insomma una musicalità e un'attitudine che poteva esserci appunto soltanto probabilmente per l'unica volta 30 anni fa. Vincent Clarke appunto è Martin Gore per un paio di minuti, poi Radio Giornale, fine prima parte di 451, ci sentiamo per la seconda acustica. Finiamo con Electric Dream, questo è un sogno elettrico sul serio.